Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Osservavo quel giovanotto. Il suo aspetto mi piaceva, conoscevo quell'aspetto. Veniva dal posto giusto, era uno di noi. Era l'ultimo rampollo di una razza niente affatto intelligente o arguta, fatta di uomini e di donne la cui stessa esistenza si fonda sulla religione dell'onestà e sull'istinto del coraggio. Non parlo del coraggio in combattimento, del coraggio civile o di qualsiasi altro tipo di coraggio. Parlo proprio di quell'abilità innata di guardare in faccia le tentazioni, una dote di natura prevalentemente intellettuale senza essere, lo sa il cielo, una posa, di una capacità di resistenza, non capite, sgradevole se volete, ma di valore incalcolabile, di una durezza irrazionale benedetta davanti ai terrori interni ed esterni, davanti alla potenza della natura e alla seducente immortalità degli uomini, sostenuta da una fiducia incrollabile nella forza dei fatti, nel valore dell'esempio, nello stimolo delle idee. Al diavolo le idee. Sono come degli sbandati, come dei vagabondi, che si insinuano in fondo al cervello. E ognuna si impossessa un po' della tua sostanza. Ognuna ti sottrae un briciolo di quella fede nelle poche semplici nozioni a cui ti devi attaccare se vuoi vivere degnamente e morire in pace. Tutto ciò non ha nulla a che vedere direttamente con Jim. Solo egli era esteriormente così tipico di quella gente tanto buona e stupida di cui ci piace pensare che marci accanto a noi nella vita. Di quella gente che non è turbata, diciamo, dalle bizzarrie dell'intelligenza e dalle perversioni dei nervi. Era il genere di individuo cui affideresti a giudicare dal suo aspetto il ponte di comando, in senso professionale e figurato, e parlo con cognizione di causa. Quanti giovanotti ho formato ai miei tempi, al servizio nella flotta britannica, all'arte del mare, all'arte il cui segreto si potrebbe esprimere in una frase brevissima, e che tuttavia deve essere ribadito ogni giorno nella testa dei giovani finché non diventa parte integrante di ogni loro pensiero quotidiano e di ogni sogno notturno. Il mare è stato buono con me, ma quando ricordo tutti quei ragazzi che mi sono passati fra le mani, alcuni adulti, alcuni ormai annegati, ma tutti ottimi per il mare, anch'io penso di essermi comportato bene con lui. Non c'erano dubbi sui fatti, o meglio sull'unico fatto rilevante. Come il Patna avesse subito il danno non fu dato sapere. Il tribunale riteneva che non fosse possibile accertarlo. D'altronde, fra i presenti pareva che non importasse a nessuno. E tuttavia, come vi ho detto, al processo assistette tutta la gente del porto e vi era una folta rappresentanza di coloro che erano, in un modo o nell'altro, coinvolti nell'attività marittima. Che se ne rendessero conto o no, l'interesse che li richiamava lì era puramente psicologico. La speranza di una qualche rivelazione fondamentale sull'intensità, la potenza, l'orrore delle emozioni umane. Naturalmente, nulla di ciò poteva risultare agli atti. La deposizione del solo uomo in grado di sostenere un interrogatorio e disposto a farlo continuò a ruotare intorno al fatto ben noto e l'intrecciarsi delle domande su di esso risultò tanto istruttivo quanto dare colpi di martello a una scatola di ferro per scoprire cosa ci trovi al suo interno. In ogni caso, un'indagine ufficiale non poteva essere altro. Il suo fine era quello di accertare il superficiale come della faccenda e non il suo profondo perché. Di questo il giovanotto avrebbe potuto certamente parlare, ma quantunque fosse proprio questa la cosa che interessava al pubblico, le domande che gli furono poste lo condussero inevitabilmente lontano da quella che sarebbe stata, almeno per me, la sola verità che valesse la pena di conoscere. Ma non si può pretendere che le autorità costituite facciano indagini sulle condizioni dell'anima di un uomo, o forse solo del suo fegato. Loro compito era solo di soffermarsi sulle conseguenze. E francamente un magistrato inquirente distratto e due periti nautici non servono a molto altro. Non voglio pensare che costoro fossero stupidi. Il presidente era molto paziente. Uno dei due periti era un capitano di nave a vela con una barba rossastra e un animo pio. L'altro era Brearley. Big Brearley. Alcuni di voi devono aver sentito parlare di Big Brearley, il capitano della nave principale della compagnia Blue Star. È lui. Thank you. Quella di Brearley non era noia, era esasperazione. E quindi quella di Jim probabilmente non era impudenza. Secondo la mia teoria non lo era. Me lo immaginavo disperato. Fu allora che i nostri sguardi si incontrarono. Si incontrarono e l'occhiata che mi diede frustrò ogni intenzione che avessi avuto di parlargli. In un'ipotesi o nell'altra, insolenza o disperazione, capii che non potevo essergli utile. Ciò avvenne nel secondo giorno della causa. Subito dopo quello scambio di occhiate, l'inchiesta fu nuovamente rinviata al giorno successivo. I bianchi cominciarono subito ad affollarsi all'uscita. Poiché già in precedenza era stato invitato a scendere dalla pedana, Jim poté essere fra i primi a lasciare la sala. Potevo vederne le larghe spalle e la testa stagliarsi alla luce della porta. Quindi, mentre mi avviavo lentamente all'esterno, conversando con qualcuno, un estraneo che mi aveva rivolto casualmente la parola, lo scorsi dall'interno dell'aula delle udienze con i gomiti appoggiati alla balaustra della veranda e le spalle girate a quel piccolo flusso di persone che scendevano per la scalinata. Si udiva il mormorio delle voci e il fruscio dei passi. La causa successiva riguardava una denuncia per aggressione e percosse, credo, ai danni di uno strozzino. E l'imputato, un uomo dall'aspetto venerabile con una lunga barba bianca che abitava in un villaggio, era seduto su una stuoia poco fuori dalla porta con i figli, le figlie, i generi, le nuore e una folla che pensai dovesse essere mezza popolazione del paese, accovacciata o in piedi accanto a lui. Una snella donna dalla pelle scura che aveva parte della schiena e una spalla nuda e un sottile anello d'oro al naso, cominciò improvvisamente a parlare con una voce stridula e bisbetica. L'uomo che era con me istintivamente alzò lo sguardo verso di lei. In quel momento avevamo appena superato la porta, passando dietro alle robuste spalle di Jim. Non so se il cane giallo fosse stato portato da quei paesani. In ogni caso c'era un cane che si infilava fra le gambe della gente in quel modo silenzioso e furtivo che hanno i cani degli indigeni. E il mio compagno vince un po'. Il cane balzò via senza un verso e l'uomo, alzando leggermente la voce, disse con una risatina: «Guardi quel miserabile animale!» Subito dopo fummo separati dalla massa di quelli che spingevano per entrare. Io mi appoggiai per un momento alla parete, mentre l'altro scese i gradini e sparì. Vidi che Jim si girava, fece un passo in avanti e mi sbarrò la strada. Eravamo soli. Mi fissò insistentemente con aria di sfida. Mi accorsi che mi stava trattenendo su un sentiero, per così dire in un bosco. Ormai la veranda era vuota e il frastuono e il movimento erano cessati all'interno del tribunale. Un grande silenzio era caduto su tutto il palazzo, in cui in una parte remota una voce orientale aveva cominciato un piagnucoloso lamento. Proprio nel momento in cui cercava di infilarsi dalla porta, il cane si fermò improvvisamente per spulciarsi. «Ha detto a me?» chiese Jim a voce bassa e piegandosi in avanti, non tanto verso di me, quanto contro di me, se capite quello che voglio dire. Subito risposi: «No». C'era qualcosa in quel suo tono tranquillo che mi induceva a stare in guardia. Lo osservai. Era proprio come incontrare qualcuno in un bosco, con la sola differenza che l'esito era più incerto, perché lui non poteva volere né la mia borsa né la mia vita. Non poteva volere nulla che io gli potessi dare o difendere coraggiosamente. «Lei dice di no», continuò lui, tetro. «Ma io ho sentito». «Ci deve essere un errore», protestai imbarazzato, ma senza togliergli gli occhi di dosso. Osservare la sua faccia era come seguire il progressivo rabbuiarsi del cielo prima del tuono, con l'impercettibile addensarsi delle ombre e l'infittirsi misterioso della tenebra, della calma, della violenza crescente. Perché ha continuato a fissarmi tutta la mattina? Mi chiese Jim infine. Alzò lo sguardo e quindi lo riabbassò. Pretendeva che ce ne stessimo tutti seduti a testa china per rispetto della sua suscettibilità? Ribattei seccamente. Egli sollevò di nuovo gli occhi e questa volta mi guardò fisso in faccia. «No, va benissimo», esclamò con voce lenta, come se stesse riflettendo sulla verità dell'affermazione che stava per fare. «Va benissimo, questo l'accetto. Solo...» E qui parlò un po' più velocemente. «Non permetto a nessuno di insultarmi fuori dal tribunale. C'era un tale con lei, lei gli ha parlato. Oh sì, lo so, è tutto a posto. Lei parlava con questa persona, ma voleva che io sentissi». Lo assicurai che era tutto un equivoco, non capivo come fosse potuto capitare. «Lei pensa che non avrei il coraggio di reagire a una simile offesa?» disse con una certa debole amarezza. Ero teso a cogliere anche le minime sfumature della sua voce, ma questa affermazione non mi chiarì nulla. E tuttavia c'era forse qualcosa in queste parole, o magari solo nell'intonazione della frase, che improvvisamente mi spinse a cercare per lui ogni possibile giustificazione. Adesso non mi infastidiva tanto l'incredibile situazione in cui mi trovavo, quanto il fatto che quell'uomo si sbagliava, aveva frainteso, e io intuivo che si trattava di un errore antipatico e odioso. Ero ansioso di porre fine a quella scena per una questione di dignità, proprio come quando vogliamo interrompere un'abominevole confidenza non richiesta. Il buffo era che in mezzo a tutte queste considerazioni di carattere superiore, ero conscio di nutrire una certa apprensione per l'eventualità, o meglio, per la concreta possibilità, che questo incontro finisse in una volgare rissa che non poteva avere alcuna spiegazione, che mi avrebbe coperto di ridicolo. Non aspiravo a un'effimera celebrità per essere l'uomo che si era preso un occhio nero o qualcosa di simile dal primo ufficiale del PAT, ma molto probabilmente egli era indifferente alle proprie azioni, o comunque se ne sentiva completamente giustificato. Nonostante il suo atteggiamento tranquillo e persino indolente, non ci voleva un mago per capire che era straordinariamente adirato per qualcosa. Non nego che desideravo calmarlo a tutti i costi se solo avessi saputo come, ma non lo sapevo, come potete ben immaginare. Buio completo, senza un minimo sprazzo di luce. Ci fissavamo in silenzio. Per una quindicina di secondi lui si trattenne, quindi avanzò di un passo e io mi preparai a parare il colpo, anche se penso di non aver mosso un muscolo. «Le direi quello che penso di lei», disse a voce bassissima. «Anche se lei fosse grosso il doppio e si avesse la forza di 6 uomini, lei un momento!» esclamai io. Per un attimo si interruppe. «Prima che lei mi dica che cosa pensa di me», proseguì velocemente, «vuole spiegarmi gentilmente che cosa io avrei detto o fatto?» Durante la pausa che seguì mi scrutò indignato mentre io facevo sforzi sovrumani di memoria, infastidito dalla voce orientale che all'interno del tribunale protestava in modo appassionato ma confuso contro l'accusa di falsità. Riprendemmo a parlare quasi contemporaneamente. «Le dimostrerò subito che non lo sono», disse lui con un tono che faceva pensare all'imminente esplosione della crisi. «Ripeto che non capisco», dichiaravo io con calore nel medesimo momento. Egli cercò di incenerirmi con uno sguardo sprezzante. «Ora che vede che non ho paura, tenta di venirne fuori», disse. «Dunque chi è un animale, eh?» Finalmente compresi. Thank you. Buon Dio, balbettai. Non penserà che io... Ma io sono sicuro di aver sentito, insistette, alzando per la prima volta la voce dall'inizio di quella deplorevole scena. Poi, con un'ombra di sdegno, aggiunse. Allora non è stato lei? Bene, troverà questa persona. Non sia sciocco, gridai esasperato. Non è proprio ciò che lei pensa. Ma ho sentito, ripetei con un'insistenza cupa e ostinata. Qualcuno avrebbe potuto ridere di tanta pertinacia, io no. Oh, proprio no. Mai uomo era stato tradito in modo così spietato dai propri impulsi. Era bastata una parola per strappargli la riservatezza, quella riservatezza che è più necessaria alla rispettabilità del nostro animo di quanto lo siano i vestiti al decoro del nostro corpo. Non sia sciocco, ripetei. Allora l'ha detto l'altro, questo non può negarlo, esclamò con voce chiara e guardandomi in faccia senza battere ciglio. No, non lo nego, risposi fissandolo a mia volta. Infine i suoi occhi seguirono la direzione del mio indice puntato. Dapprima non parve comprendere, quindi sembrò confuso e infine stupito e spaventato, come se quel cane fosse stato un mostro e come se non avesse mai visto un cane in vita sua. Nessuno si è mai sognato di insultarla, dissi. Contemplò la povera bestia, che stava immobile come una figura dipinta. Era seduta con le orecchie dritte e il muso affilato, puntato alla soglia. Improvvisamente cercò di catturare una mosca con un moto d'automa. Lo guardai. Il rosso della sua carnagione bruciata dal sole divenne più vivo sotto la peluria delle guance. Si sparse sulla fronte, si diffuse fino alla radice dei capelli ricci. Le orecchie si fecero color porpora e persino l'azzurro chiaro degli occhi assunse una tinta molto più intensa per l'afflusso di sangue alla testa. Le labbra gli si incresparono leggermente e tremarono come se fosse stato sul punto di scoppiare in lacrime. Intuì che era incapace di dire una sola parola, tanto si sentiva umiliato. Forse provava anche delusione, chi lo sa? Magari era ansioso di darmi una severa punizione per riabilitarsi, per riacquistare la tranquillità. Chi può dire quale sollievo si attendesse da questa occasione di rissa? Era ingenuo, al punto da aspettarsi qualunque cosa, ma in questo caso si era lasciato andare inutilmente. Era stato schietto con se stesso, come del resto con me, nella vana speranza di arrivare in tal modo a un qualche reale confronto, ma le stelle si erano rivelate ironicamente avverse. Emise un suono inarticolato, come un uomo mezzo tramortito da una botta al capo. Faceva pietà. Non riuscii a raggiungerlo che un po' di tempo dopo che ebbe oltrepassato il portone. Infine dovetti persino trottare un po'. Ma quando fui alla sua altezza e gli rinfacciai ansimando di essere fuggito, rispose «Mai!» E fermatosi, si girò verso di me con aria aggressiva. Gli spiegai che non avevo inteso dire che volesse fuggire lontano da me. «Da nessuno! Da nessun uomo della terra!» dichiarò con ostinazione. Mi astenni da ricordargli l'unica ovvia eccezione che avrebbe fatto scappare anche il più coraggioso di tutti gli uomini. Pensavo che presto l'avrebbe scoperta da solo. Mi guardò con pazienza, mentre io pensavo a qualcosa da dire senza riuscire a trovare nulla nell'ansia del momento, ed egli riprese a camminare. Gli rimasi al fianco, e ansioso di non perderlo, dissi frettolosamente che non volevo lasciarlo con la falsa impressione della mia... Mi impappinai. Mentre tentavo di finirla, fui spaventato dalla stupidità di quella frase, ma il potere delle parole non ha nulla a che vedere con il loro senso o con la logica della loro costruzione. Quel mio bofonchiamento idiota parve piacergli. Le interruppe, dicendo con una quieta cortesia, che era prova di un'immensa capacità di autocontrollo o di una straordinaria duttilità dello spirito, «L'errore è mio!» Rimasi molto sorpreso da questa espressione. Sembrava che stesse parlando di un episodio di nessuna importanza, che non avesse compreso tutto il deprecabile significato. «La prego di perdonarmi», continuò, e proseguì malinconicamente. Tutta quella gente in tribunale che guardava sembravano così stupidi che era naturale che mi venisse quel sospetto. Da quel giorno io alloggiavo alla Malabar House, e fu qui che accettò di cenare con me, cedendo ai miei pressanti inviti. Thank you. Thank you.